apro gli occhi, dove sono non lo so. Riapro gli occhi, non so proprio dove sto. La notte mi è volata e il mal di testa mi confonde un po'. Cerco di rastrellare i ricordi che arrivano fino alle tre. Metto a fuoco quel poster sul muro, sembra proprio dei Tokyo Hotel. Giro e rigiro lo sguardo, ma qua dentro il reggae non c'è. Forse è il caso di accendere la luce, ma il pulsante non so dov'è. Forse è meglio che accendo la luce. Cosa ho fatto dopo le tre? Intanto ho la testa come un cocomero blu. Ho la testa come un cocomero bianco. Penso, adesso che ci penso, adesso che ci penso, adesso che ci penso, questo non è il mio comodino, con la canna spente l'accendino, quanto cazzo russa sto cuscino, forse un cuscino non è. Ho la testa come un cocomero blu. Ed esperienza già ne ho. Di restare non se ne parla, devo andarmene in fretta di qua. Se si muove sto cuscino, ancora affetto riceverò. Ma se si sveglia sto cuscino, di collassare rischierò. Intanto ho la testa come penso, adesso che ci penso, adesso che ci penso, adesso che ci penso, come un ladro scivola da letto, metti in fretta in furia i tuoi vestiti, delicato esci dalla casa e va più veloce che puoi. Ho la testa come un cocomero blu. Adesso ci ripenso. Madonna, mi sbornia pure ieri sera.